Uomini forti e grandi leader mostrano spesso lati ridicoli, scivolano su gaffe inenarrabili e fanno sorridere. La leadership è il grottesco, il potere alla dura prova della risata. Benvenuti all'ultima puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Hitler Almanyasına baktığınızda orada da io sono il vostro nuovo presidente. D'ora in avanti la lingua ufficiale del Bananas sarà lo svedese. Buona giornata, ben ritrovati gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. L'ultimo appuntamento di Nessun Luogo Lontano di questa stagione. Vi porgo i saluti anche da parte di Antonio Tale, Elisa Pancaldi che sono in regia e Gianmarco Ferronato che è in regia. Entrambi in regia, i primi in redazione, il secondo in regia. Vi ricordo anche le coordinate per interagire con noi, 349-238-6666, il numero vale sia per gli sms che per i whatsapp. Siamo su Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, e siamo su Facebook. La pagina è Nessun Luogo Lontano-Radio24, ma la diretta Facebook la trovate anche sulla pagina di Radio 24. Allora, è l'ultimo appuntamento di questa stagione di Nessun Luogo Lontano e allora ci perdonerete perché sarà una puntata tra il serio e il faceto. Quest'oggi infatti vi racconteremo un lato inusuale di un fenomeno politico che ormai da anni sta abbracciando non soltanto l'Europa ma anche alcuni stati africani e asiatici, la nascita dei populismi ma soprattutto il bisogno di leader forti. Non so se vi ricordate cosa ci diceva Francesca Mannocchi, giornalista freelance, a proposito della crescente carisma, del crescente peso politico del generale Haftar. Vari esponenti di tribù libiche dicevano: abbiamo bisogno di un uomo forte. Uomini forti, leader autoritari, spesso appunto la deriva autoritaria dietro l'angolo, insomma qualcuno che sa davvero cosa fare e non viene rallentato da procedure inutili, siamo ironici qua ovviamente, come discussione delle leggi, voto parlamentare, elezioni. Questi regimi però nella loro repressione, nelle loro attività, a volte compiono atti scomposti, promulgano leggi surreali, fanno operazioni e dichiarazioni appunto al limite del ridicolo. Molto spesso la narrativa del cinema, la fiction, ha tratto linfa vitale da figure di leader e dittatori, ma scopriremo in questa puntata che a volte finzione e realtà si confondono in maniera sublime. Ciao Corea del Nord! Io sono il vostro nuovo presidente. D'ora in avanti la lingua ufficiale del Bananas sarà lo svedese. Mi dispiace, ma io non voglio fare l'imperatore. Non è il mio mestiere. Non voglio governare né conquistare nessuno. Vorrei aiutare tutti, se possibile. Chiusi in una stanza da soli con Kim, alla CIA piacerebbe che poteste farlo fuori. Silenzio! A partire da ora, tutti i cittadini saranno tenuti a cambiarsi la biancheria ogni 30 minuti! Combattiamo per un mondo ragionevole, un mondo in cui la scienza e il progresso diano a tutti gli uomini il benessere. Soldati, nel nome della democrazia, siate tutti uniti! Il lato più surreale, più ridicolo di regimi e di grandi leader autoritari, di grandi leader potenti, che a volte, complice questo potere che gli viene riconosciuto, insomma, per usare un'espressione un po' prosaica, la fanno fuori dal vasino perché dicono cose veramente incredibili. Vi garantisco che tutte le storie che vi racconteremo da adesso in poi sono tutte reali. Iniziamo questo viaggio e questo viaggio, Gianmarco Ferronato, suona così. Buona! Immagino che voi tutti abbiate riconosciuto questa celebre canzone I Will Always Love You. Nell'ottobre del 2002 questa canzone è stata suonata incessantemente per 24 ore nelle strade di Baghdad. Era la colonna sonora di una campagna elettorale. Pensateci, 24 ore di I Will Always Love You in arabo, senza sosta. Sapete di chi era quella campagna elettorale? era quella di Saddam Hussein. In quell'occasione si svolgeva un referendum per confermare il potere appunto del dittatore iracheno. Per la cronaca, il referendum è stato vinto con il 100% dei voti, roba da Bulgaria dei tempi d'oro. Peccato che però, a dispetto della melassa amorosa che trasudava da queste note, 5 mesi dopo, nel marzo del 2003, l'Iraq veniva bombardato dagli Stati Uniti. In questa puntata di Nessun Luogo Lontano stiamo cercando di esplorare i lati e gli aspetti più surreali di leader, di dittatori, di uomini forti e dei loro regimi, che a volte si muovono in maniera davvero scomposta. Per il prossimo viaggio, Gianmarco Ferronato, dove ci porti? Era il 2012 e la cronaca e i giornali russi ci restituivano un episodio di cronaca piuttosto importante. 2012, a Barnauli in Siberia, erano state arrestate centinaia e centinaia di pericolosi manifestanti, fermate una ventina di auto. Gli arrestati, in effetti, erano 100 sorprese della Kinder, 100 omini della Lego, una ventina di auto telecomandate e innumerevoli orsacchiotti. Cosa era accaduto? Beh, era accaduto che gli attivisti anti-Putin avevano inscenato una manifestazione con centinaia di questi pupazzetti, ricordo in particolare c'erano alcuni simpatici pinguini, con dei cartelli appunto anti-Putin. Potete immaginare il contraccolpo anche a livello di immagine, mediatico, delle foto che erano poi uscite, erano circolate all'estero, con questi poliziotti russi serissimi in assetto antisommossa che davano multe ai pupazzetti Lego. A ben vedere, come dire, la monolitica macchina della propaganda di Putin aveva ricevuto un serissimo colpo. L'ideatore, sapete chi era? Sergei Mamayev. E la voce che sentite è proprio quella di Sergei Mamayev, l'organizzatore e proprietario dei giocattoli che avevano organizzato quella protesta. Dicevo appunto pupazzi, sorpresine della Kinder, soldatini Lego, eccetera. Tra i soldatini, per esempio, c'era uno con un cartello recante una scritta particolarmente forte contro il regime di Putin: i ladri dovrebbero stare in carcere, non al Cremlino. Per cui è scattata la repressione e la macchina appunto di Putin. Il problema, diciamo la parte più surreale se volete, è stata la motivazione della sospensione e rimozione di quella protesta. Perché? Perché i pupazzi non erano cittadini russi. Cioè, tra le motivazioni dei militari, degli ufficiali di polizia russi che stavano sgomberando e dando multe ai pupazzetti, c'era il fatto che non solo questi erano pupazzi, appunto, non persone, ma non erano russi. E quindi non avevano il diritto di protestare. Inoltre il capo della polizia aveva sostenuto che rappresentassero un pericolo perché i proprietari potevano trarre ispirazione dal loro comportamento. Insomma, Putin, quello che aveva vinto le ultime elezioni in Russia nel 2012 col 63,6% dei voti, 47 milioni di russi che avevano votato per lui, a un certo punto aveva dovuto dare l'ordine ai suoi poliziotti e dare multe a gogo ai soldatini della Lego. Una caratteristica fondamentale degli uomini forti è la retorica e la narrativa. Ci ha abituati a questo, per esempio, Donald Trump. È una narrativa, però, che in alcuni casi è molto forte e molto violenta, colpisce con slogan, e adesso vi propongo un piccolo esercizio di retorica. In film epici hollywoodiani ci sono personaggi che dicono «scateno una guerra che neanche te l'immagini». Oppure altri eroi che dicono «hai lasciato qualcosa anche per noi? Solo cadaveri». O altri ancora che con piglio feroce dicono «tu sei la malattia, io sono la cura». Il problema è che alcuni leader attingono a frasi di questo genere. Per esempio, Rodrigo Duterte. Il presidente filippino ha detto, e recito testualmente, «Ho ordinato di non risparmiare nessuno». Oppure, «Drogati, criminali, fannulloni, fareste meglio andar via, perché vi ucciderò tutti». Perché parliamo di Rodrigo Duterte? Perché, lo sapete se ci avete seguito anche l'anno scorso, parlammo di questa campagna furiosa anti-droga, anti-trafficanti, anti-spacciatori, anti-consumatori che ha mietuto parecchie vittime, molto spesso anche civili innocenti. Secondo la polizia filippina, e come dire, Duterte si fregia anche di questi numeri, in un anno vi sono stati oltre 7.000 morti, secondo le organizzazioni umanitarie che hanno fatto una levata di scudi, sono stati oltre 10.000. Buongiorno, ben ritrovata Nessun Luogo è Lontano a Cecilia Attanasio Ghezzi di Pagina 99. Cecilia, buongiorno. Buongiorno a tutti. Cecilia, giornalista, sinologa, è stata nelle Filippine, ha indagato e esplorato questa campagna antidroga di Duterte. Cecilia, però c'è ancora una volta qui, dentro una vicenda così drammatica, c'è un aspetto totalmente surreale. Partiamo dalle scuole. Allora, l'avrete riconosciuta, vi ricordate i Muppet Show? Allora, so che la puntata è tra il serio e il faceto e questo accostamento potrebbe sembrare irriverente, ma è tutto vero, perché Duterte, questo cowboy muscolare, questo che promette lotta senza quartiere a drogati, spacciatori e fannulloni, si è trasformato in un pupazzo, cioè in un Muppet, e ha fatto il suo show assieme al capo della polizia. Quindi immaginatevi un pupazzetto con la faccia di Duterte e un altro pupazzetto con la faccia del capo della polizia. E questo show di pupazzi va in scena nelle scuole per fare una campagna antidroga. Cecilia Attanasio Ghezzi, tu hai tastato con mano anche questo aspetto che, francamente, definire surreale mi sembra eufemistico. Lo è. Consideriamo che questi show per le scuole, questa pubblicità progresso, se la vogliamo chiamare così, spesso finisce con gli stessi studenti invitati a partecipare a una sorta di recita sul palco in cui a chi viene assegnata la parte del drogato viene poi ucciso, per dimostrare la morale di tutto questo è che a un drogato non deve essere risparmiata la vita. Tra l'altro questo avviene nelle città, mentre quello che a me mi è stato raccontato nelle campagne delle Filippine è che sono direttamente senza show, la classe viene divisa in due gruppi, chi è pro e chi è contro le politiche di Duterte, e vengono così fatti discutere per linee generali. Ovviamente vince sempre chi è pro Duterte, e queste sono le attuali lezioni di storia moderna filippina. Cecilia Attanasio Ghezzi, giornalista per Pagina 99, è stata nelle Filippine a fare un servizio col fotografo Nicola Longobardi, anche ha vinto il premio Bonfanti per quel servizio, ha indagato proprio questa lotta senza quartiere proclamata dal presidente filippino, che, dicevo, ha fatto anche tantissime vittime, tantissimi innocenti, spesso gli strati più vulnerabili della popolazione sono stati colpiti, ma che ha appunto avuto, complice le dichiarazioni di Duterte, complice questi show tra il tragico e il tragicomico nelle scuole, ha avuto altri risvolti. Però poi Cecilia, Rodrigo Duterte ci ha abituato a dichiarazioni molto forti, molto spesso al limite del surreale. Lo ricordo, Duterte è stato eletto lo scorso anno con 14,8 milioni di voti contro gli 8 milioni del suo principale rivale Roxas, cioè il 40% dei filippini che hanno diritto ha votato Duterte. Ancora una volta ci troviamo di fronte a uomini con forte supporto popolare. Torniamo alle dichiarazioni, Cecilia, di Duterte. Si è conquistato probabilmente l'attenzione dei media internazionali dando del figlio di sia al Papa sia all'allora Presidente degli Stati Uniti Obama. Ha proseguito dicendo che con i cadaveri degli spacciatori avrebbe ingrassato i pesci della Baia di Manila, e se non è da Rambo questa non lo so. E l'ultima, quando ha dichiarato lo stato marziale sull'isola di Mindanao, ha dichiarato alle sue truppe che si sarebbe preso la colpa di tutto, anzi, se violentate tre donne dirò che sono stato io. Ecco, questo per dire delle dichiarazioni al limite del surreale che a volte leader forti, leader autoritari compiono. Prima di lasciarti, Cecilia, dopo tutte queste dichiarazioni, quel milione di quel 14,8 milioni di filippini che hanno votato Duterte sono ancora d'accordo? Qual è il sentire della popolazione filippina rispetto a questo leader che ha compiuto una deriva decisamente opinabile? Diciamo che se a livello politico piano piano sta facendo fuori l'opposizione, nei bassi, che sono stati poi quelli che erano più affascinati da questa retorica dell'uomo forte, di Duterte il castigatore, sta perdendo un po' di potere. L'ultima cosa grande che è successa, e sicuramente porterà a una diminuzione effettiva poi del consenso, la Chiesa una settimana fa si è finalmente schierata contro le uccisioni dei drogati. E dal 23 agosto per 3 mesi suonerà le campane a morte tutti i giorni alle 20 di ogni sera. E questo insomma per dire che un leader forte, con forte sostegno popolare, che è eletto democraticamente, che però a un certo punto ha preso, come dire, una piega e una deriva decisamente autoritaria, in spregio anche a qualsiasi convenzione internazionale, esiste una società civile che fa una levata di scudi. Grazie mille Cecilia Attanasio Ghezzi di Pagina 99 per essere stata con noi. Buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi e buon lavoro. (349) 238 6666 per i vostri commenti, le vostre domande su WhatsApp. Un ascoltatore da Bergamo mi chiede come faccio, cioè non capisco come si possa essere a favore dei drogati. Qua non è questione di essere a favore dei drogati, è questione che la campagna contro il traffico di droga di Duterte è stata una campagna che non ha rispettato alcun diritto umano e individuale. Molto spesso vengono uccisi drogati, non, il problema non è mettere in carcere gli spacciatori, è che vengono uccisi i drogati. Altre volte vengono uccisi innocenti soltanto perché passano di lì per caso, molto spesso bande con la complicità della polizia. Insomma, la situazione dal punto di vista dell'ordine pubblico nelle Filippine è quantomeno discutibile dopo che Duterte appunto ha lanciato questa campagna antidroga. È anche vero che Duterte ha intercettato un bisogno della popolazione filippina, che lo diceva è comune in tanti altri paesi, dell'uomo forte, del leader deciso. Perché questa voglia di uomini forti? Giro la domanda a Giuseppe Sciortino, che insegna sociologia all'Università di Trento. Professor Sciortino, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo è Lontano. Allora, come si può riassumere questa voglia di uomini forti? Lo vediamo negli ultimi anni. Molto più spesso l'elettorato, no, vuole il leader carismatico, quello che decide subito, presto, ora. Direi che in un periodo di crisi, e usciamo a livello globale da anni e anni di crisi, questa è una tentazione quasi inevitabile. Ci si illude in qualche modo, buona parte dell'elettorato, comunque dell'opinione pubblica, si illudono che gli uomini forti possano offrire soluzioni semplici a problemi complessi. Questo purtroppo non è così, perché non è così nella vita, e il problema è che questa illusione, l'illusione di poter fornire una soluzione immediata e istantanea a problemi lunghi e strutturali, può essere mantenuta soltanto creando dei nemici interni. Abbiamo sentito i drogati nel caso delle Filippine, ma potremmo citare tanti altri. Sì. È l'unico modo di avere un nemico, è l'unico modo di avere qualcuno a cui addossare la colpa perché le cose non funzionano, e quindi dire implicitamente che chi governa non ha colpe. Naturalmente questa tentazione dell'uomo forte è anche rafforzata dal fatto che le strutture, diciamo, decisionali dei regimi democratici, sistemi democratici, spesso sono disfunzionali, nel senso che non riescono a rispondere ai problemi reali, o quantomeno non riescono onestamente a dire agli elettori che quei problemi forse non sono risolvibili. In questo modo, come dire, si illudono di lisciare il pelo agli elettori, soltanto che dopo un po' di tempo gli elettori pensano, quando i sacrifici arrivano, pensano che sia colpa dei politici e non colpa, diciamo, della struttura dei problemi che non sono stati affrontati. Giuseppe Sciortino insegna sociologia all'Università di Trento. Al 349-238-6666 c'è per esempio chi dice che purtroppo penso che un Putin in Italia per 4 anni al governo sarebbe salutare per la nostra democrazia malata. C'è voglia di uomini che decidono in fretta, uomini che vanno nelle situazioni. Putin è uno che, al di là delle foto a torso nudo mentre esce da laghi ghiacciati o mentre fa judo, è uno che per esempio si è sempre distinto per la sua presenza in casi di emergenza, no? O attentati o catastrofi naturali. Lui comunque è presente, è lì. Non lo so, insomma, può essere un desiderio di tutti, perché il problema è che generalmente quando metti un Putin al governo per 4 anni non ci sta solo 4 anni. E questo diciamo che un governo di Putin a tempo, diciamo, non è prevedibile. Per tempo non hanno mai funzionato così, che sappiamo la storia. Professor Sciortino, noi in questa puntata, lo ripeto, tra il serio e il faceto, che fa un po' l'eco all'altra puntata di Nessun Luogo Lontano, vi invito a riascoltarla, era Maestri di Propaganda, stiamo un po' cercando le crepe in questi giganti d'argilla che sembrano titanici, monolitici, super forti. Alla fine scopriamo che molto spesso un tweet sbagliato, una dichiarazione di troppo, insomma, si mostrano più fragili di quello che sono. Perché a volte i grandi leader finiscono nel ridicolo? Ma questo credo che sia il tallone e l'Achille di tutti i regimi autoritari. In altre parole, gli uomini forti, Putin che l'ascoltatore di prima desiderava, inevitabilmente finiscono di circondarsi di persone che, in alcuni casi per interesse, in altri casi per mera stupidità, in altri ancora per narcisismo secondario, gli mentono, nel senso che pur di dargli ragione non gli dicono qual è la verità della situazione. Così progressivamente l'unico controllo che gli esseri umani hanno sui propri peggiori istinti, che è la paura di essere giudicati e sfruttati dagli altri, si perde, perché si vive in una cerchia chiusa in cui tutti ti dicono che hai ragione. In democrazia questo spesso porta a una sorta di delirio di onnipotenza, che però è più ridicolo che dannoso. Nei regimi autoritari, come ricordano le grandi carestie dell'Unione Sovietica e della Cina, possono portare a veri e propri disastri umanitari. I dittatori decidono una cosa, l'apparato gli dice che certamente andrà così, e anche i morti per strada per fame non interrompono la politica. Ecco, Giuseppe Sciortino, però la storia dovrebbe insegnarci qualcosa, no? A volte vediamo, sentiamo dichiarazioni, leggiamo segnali che potrebbero dirci che quella deriva autoritaria è stata presa. Il comportamento di questi uomini forti a volte denuncia, no, già un obiettivo a lungo termine. Vi sono state gaffe epiche o segnali, se volete, no, di questi colossi d'argilla nella storia, eppure sembra che non siamo tanto capaci di leggerli. Quello è vero, basterebbe citare il caso che credo tutti conoscano del fatto che Hitler, che non ha mai nascosto cosa avesse intenzione di fare, anzi l'ha scritto assolutamente in modo chiaro, sia andato al governo in Germania anche perché buona parte delle classi dirigenti tedesche non lo prendeva sul serio, pensava sostanzialmente che fosse un buffone che lo scrivesse solo per ridere. Ahimè, quando si sono accorti che invece quello che scriveva era esattamente quello che voleva fare, era un po' troppo tardi. Il presidente stesso del Reich tedesco, Hindenburg, disse nel 31: ma non capisco perché qualcuno abbia paura di un buffone simile, basta lasciarlo lì, insomma, tutto passerà. No, insomma, non funziona sempre così. In quel caso la minimizzazione, il non leggere i segnali che a una prima vista magari fanno sorridere, in realtà spesso sono segnali di una dinamica politica magari anche più grave. Siamo con Giuseppe Sciortino, insegna sociologia all'Università di Trento, esperto soprattutto di immigrazione. 349-238-6666, grazie ai tanti ascoltatori che mi salutano per quest'ultima puntata. Vi ricordo anche la pagina Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, potete twittare a Giampaz, ovvero Nessun Luogo 24. C'è chi dice i dittatori comunisti hanno portato la fame, ma oggi Putin lo vorrei in Europa, non per 4 anni ma per sempre. Così un altro ascoltatore, appunto. Allora facciamo una piccola pausa, c'è già l'informazione finanziaria. Sì, piccola pausa e poi Nessun Leader sarà lontano. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Nessun Luogo. Nessun Luogo è lontano. Ben ritrovati, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Seconda pagina di Nessun Luogo è Lontano, in una puntata in cui proviamo a analizzare quali sono le crepe, le fragilità, le debolezze, molto spesso in tema di comunicazione, ma non solo, dei cosiddetti leader forti, di quegli uomini forti politici che, come dice un ascoltatore, in realtà uccidono la democrazia. Adesso rivolgerò questa sollecitazione proprio al mio ospite, che è Giuseppe Sciortino, che insegna sociologia all'Università di Trento. Sempre al 349-238-6666 c'è chi dice, per esempio, che c'era chi aveva letto i segnali di Hitler, la ThyssenKrupp. Erdogan dice: l'abbiamo riconosciuto e lo stiamo usando vergognosamente. Minniti adesso piace, ma perché sposta il problema? E così via. Professor Sciortino, è vero che il leader forte in realtà uccide la democrazia sempre e comunque? Beh no, questo non credo sia vero. Il punto è, anzi, la democrazia può essere uccisa anche dall'assenza di leader forti, perché una democrazia che non decide, che segmenta, in cui si parla van veramente dei problemi, come dire, spesso indebolisce il sostegno per la democrazia. Credo che la differenza vera sia tra i leader che esercitano l'autorità, come giusto che sia, all'interno delle norme, soprattutto nel rispetto delle minoranze, e i leader che lo fanno all'esterno delle norme e senza rispetto ai diritti delle minoranze. In altre parole, tra l'autorità liberale e l'autorità non liberale. Professor, una democrazia senza leader forti, come noi in Italia sappiamo, sì, non è sempre efficace. Professor Sciortino, se dovessimo in chiusura, in sintesi, individuare 3-4 parole forti, 3-4 hashtag che funzionano per l'uomo forte, se dovessimo twittare come alcuni appunto di questi leader fanno a volte improvvidamente. Ma ahimè, credo che ci siano già, perché i leader forti che li usano ce ne sono già. Sì. Io direi che forse è più semplice dire agli spettatori in che modo possiamo accorgerci se un leader forte in realtà è un leader autoritario e pericoloso. Mm. E sono banalmente due. Se le sue soluzioni sono talmente generiche da fare capire a qualunque persona adulta che sono irrealizzabili, per esempio, questo sì, è sicuramente un criterio per diffidare di lui. E se lo schema comunicativo è quello che dice sostanzialmente io ho la soluzione ma non ve la dico, ma i miei avversari sono cattivi, anche quello è un buon motivo per diffidare di lui. Credo che non sia difficile riconoscere quali politici mi riferisco. Grazie mille Giuseppe Sciortino per questo piccolo, breve vademecum come riconoscere l'uomo forte quando è pericoloso. Giuseppe Sciortino, sociologia, Università di Trento, grazie mille, buona giornata e buon lavoro. E buona ultima puntata. Grazie. Allora, in questo viaggio in cui tratteggiamo alcuni dei leader e i loro aspetti più grotteschi e più surreali, dobbiamo fare un balzo nel tempo e vi devo parlare di un signore che si chiama Niazov. Nessun luogo lontano ancora non c'era, ma giuro che se ci fossimo stati lo avremmo raccontato adeguatamente. Sapar Murat Niazov è stato il dittatore del Turkmenistan dal crollo dell'Unione Sovietica fino alla sua morte nel 2006. Un sacco di giornalisti hanno dedicato pezzi incredibili perché lui veramente sul lato grottesco ci ha lavorato parecchio. Oltre all'incarcerazione di migliaia di oppositori, si ricordano alcune leggi eccezionali, perché immaginate bene, ci vogliono leggi eccezionali per conservare il potere. Peccato che alcune di queste leggi prevedessero, per esempio, il divieto di portare denti d'oro. I maligni dicono è perché doveva costruire decine di statue d'oro che poi ha fatto, raffiguranti lui stesso, che si muovevano seguendo il moto solare. Niazov aveva poi, non contento, cambiato i nomi dei mesi e aprile in particolare l'aveva chiamato come la mamma, Gurban Sultan. Infine, per assecondare anche le velleità letterarie, aveva scritto un libro, Runama, il libro delle anime, che ha imposto nelle scuole, questo libro andava letto, i concorsi pubblici per parteciparvi bisognava dimostrare di averlo letto, saperlo recitare. È un libro intriso di misticismo dal valore decisamente discutibile, però poi cosa ha fatto questo dittatore? Ha speso centinaia di migliaia di dollari, pensate, per rinchiuderlo in una capsula spaziale e spedirlo in orbita. Allora, c'è un altro leader che è stato menzionato anche dai nostri ascoltatori al 349-238-6666. Allora Gianmarco Ferronato, tocca andare in Turchia. Andiamo in Turchia e lo facciamo con Marta Ottaviani, giornalista, la potete leggere su Stampe e Avvenire fra l'altro, autrice di Il Rais. Come è caduta? La riprendiamo. Intanto però dico che Marta Ottaviani ha scritto Il Rais, l'avete sentita già da questi altre volte a questi microfoni, come Erdogan ha cambiato la Turchia, editore Textus. Marta Ottaviani ha ben indagato quelle che sono, come dire, le dinamiche del leader turco e a volte insomma anche le sue falle. Dei messinellerimiz buluşmasın bu gözler. Allora, recuperata Marta Ottaviani, buongiorno, ben ritrovata a Nessun Luogo Lontano, Marta. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, la parte, diciamo, divertente, grottesca se volete, che riguarda il presidente Erdogan sarebbe una pagella, perché se dovessimo dare i voti su alcuni temi, per esempio geografia, letteratura, costume, società, storia, insomma lì qualche bel 3 o 2 addirittura il presidente se lo meriterebbe. Ne dico un paio, poi Marta ti lascio la parola, perché sono alcune veramente sono divertenti. Sulla storia, per esempio, ancora una volta torniamo indietro, appunto, nella storia. Il presidenzialismo forte c'è già stato in Europa, ha detto Erdogan, per esempio nella Germania di Hitler. Doğru, yani üniter devlette başkanlık sistemi yoktur diye bir şey yok. Şu anda bunun zaten dünyada örneği var. Geçmişte... E questa era la sua dichiarazione. Un'altra incredibile è stata: l'America non fu scoperta da Colombo, ma dai musulmani che arrivarono lì 3 secoli prima. O un'altra ancora, andiamo in campo letterario stavolta: la Germania ha avuto un poeta come Goethe, la Spagna uno come Socrate. Allora, Marta Ottaviani, com'è possibile che un leader che si presenta al popolo così forte, così deciso, che avrà uno staff di comunicatori, ogni tanto si scivoli su queste bucce di banana così incredibili? Erdogan ne ha infilate parecchie. Sì, in realtà, e questo insomma è quello che pensano molti critici del presidente nel paese, è proprio un problema di istruzione. Erdogan ha frequentato un imamatip, una scuola vocazionale, scuola che peraltro adesso grazie alla sua riforma dell'istruzione va per la maggiore in Turchia, dove diciamo le materie sulle quali ci si sofferma sono altre, quindi materie religiose, e si tralascia lo studio insomma di soggetti come la storia, la geografia e la letteratura. Il problema qual è? Il problema è che anche sulla storia turca Erdogan ha dimostrato di non essere particolarmente ferrato. Un giorno stava parlando e ha detto che i turchi durante la battaglia di Mazinkert nel 1071, quando le armate bizantine furono sconfitte per la prima volta in territorio anatolico, ecco, Erdogan disse che i turchi sconfissero i bizantini con la forza delle loro spade, nonostante i bizantini avessero l'artiglieria e la polvere da sparo. Ora, la polvere da sparo non era ancora stata inventata, sarebbe arrivata 300 anni dopo. Certo. Un'altra figuraccia che il presidente ha fatto è stato quando ha detto che la capitale dei turchi selgiuchidi era Ankara, la capitale invece era Konya. Peraltro Ankara ai tempi dei fatti era un paesotto in Anatolia abitato solo da pecore e pastori, fu scelta come capitale della Turchia moderna, quindi non dell'impero ottomano, da Mustafa Kemal Atatürk. Però insomma diciamo che purtroppo le gaffe Erdogan non si limitano alla storia, anche in geografia il nostro presidente della Repubblica ha delle lacune, visto che una volta ha detto che l'Olimpo è un monte mitico che si trova in provincia d'Antalia in Turchia, invece insomma tutti sappiamo che si trova in Grecia. Esatto, okay. esatto. E quindi ha sottratto fra l'altro insomma un pilastro di tutta la cultura epica greca. Però Marta Ottaviani, queste gaffe, questi scivoloni che sono delle vere e proprie crepe dal punto di vista comunicativo di un grande leader come Erdogan, sono riprese dalla stampa internazionale. La stampa turca, più volte l'abbiamo descritto, tu stessa l'hai descritta a questi microfoni, non vive esattamente una buona stagione, non gode di buona salute. Quanto queste gaffe sono riprese dai media turchi? Cioè quanto la popolazione, chi lo ha votato, poi riceve, no, questo feedback negativo? Sono riprese sempre meno, a meno che non abbiano uno sfondo politico. Per esempio quando Erdogan, ve lo ricorderete, nella primavera di quest'anno ha incitato le donne europee, turche, scusatemi, che vivono in Europa a fare almeno 5 figli, ecco lì sì, ci fu una grossa eco sulla stampa nazionale turca, proprio perché Erdogan veniva descritto come quello che in qualche modo metteva in difficoltà l'Unione Europea e faceva capire all'Unione Europea come anche grazie ai flussi demografici l'Europa del futuro in qualche modo cambierà. È tra l'altro un leader che ogni volta che dice queste cose lo fa ricaduta interna, sapendo che una parte della sua popolazione, proprio per un problema di istruzione di cui parlavo prima, non può intervenire criticamente in quello che Erdogan dice. E c'è un vero proprio sfondo ideologico, soprattutto religioso, quando Erdogan, come hai ricordato tu prima, ha detto che l'America in realtà è stata costruita dai musulmani, sì. Ecco, lì c'era proprio un'altra frase di Erdogan che insomma è passata abbastanza agli onori delle cronache, è stato che si studiano solo gli scienziati occidentali e mai quelli della tradizione araba orientale, però insomma poi quando gli hanno chiesto presidente Maliki intenderebbe, insomma lì ci fu una scena muta clamorosa, quindi ecco è un presidente che ha lacune e ogni tanto fa anche delle gaffe che rischiano di costargli caro, almeno fino a quando il suo potere non era assoluto. Figuratevi che nel 2013, prima della rivolta di Gezi Park, quando fu introdotta la nuova legge sull'alcol che pone delle restrizioni nel consumo di alcolici, Erdogan disse che era stato costretto a intervenire perché la legge prima era stata fatta da due ubriaconi, dove uno dei due ubriaconi in questione era niente meno che Mustafa Kemal Atatürk, il fondatore dello Stato moderno e ancora oggi per alcuni sempre meno un punto di riferimento. Quindi insomma, in buona sostanza, se posso sintetizzare, Marta Ottaviani, mi ricollego a quello che diceva il professor Sciortino, questi lati grotteschi, ridicoli, queste gaffe incredibili avvengono proprio perché se lo possono permettere, l'entourage non lo contesta, l'opposizione non lo contesta, nel caso turco abbiamo anche appunto un grande vuoto da parte dei media. Grazie mille Marta Ottaviani per essere stata con noi, lasciamo le strade di Istanbul, andiamo su quelle italiane e poi di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Nessun Luogo. Nessun Luogo è Lontano. Ben ritrovati gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, ultima pagina dell'ultima puntata di Nessun Luogo è Lontano. 349-238-6666, grazie mille per i saluti e le attestati di stima. C'è però Piero D'Alegnano, per esempio, che dice: i grandi leader sanno governare senza calpestare le libertà individuali, facendo rispettare le norme e non calpestandole per far tacere oppositori o dissidenti, come avviene in Egitto e in Turchia. 349-238-6666, c'è chi dice: ma perché non parlate per esempio del presidente del Kazakistan? In realtà non c'è tempo, però la cronaca internazionale ci restituisce, lo avete sentito anche dal GR, un caso storico, perché la Corte Costituzionale keniana ha detto le elezioni non sono valide, bisogna rivotare entro 60 giorni. E così Uhuru Kenyatta, lo avete sentito dal GR, ha accettato, ha preso non esattamente di buon grado questa decisione della Corte Costituzionale, però ha accolto questa sentenza, quindi si rivoterà. Anche Kenyatta qualche scivolone lo ha fatto. Era il 6 marzo del 2016, si celebravano i 50 anni dell'indipendenza del Ghana e tra gli invitati c'era anche lui, il nostro presidente Kenyatta. Sulla brochure però lui non figurava come presidente del Kenya, ma come capo di Stato proprio del Ghana. Quindi un refuso, evidentemente, un disguido che non è stato però molto ben accolto da Kenyatta, il quale subito dopo l'impegno internazionale si è sfogato con i media locali e ha detto: è stato un affronto perché io come presidente ho fatto grandi cose per il Kenya trasformandolo in un grande stato, cosa che non si poteva dire del Ghana. Non potrei mai essere il capo di uno stato, di un paese corrotto come il Ghana e richiedo delle scuse. Fa sorridere ovviamente perché il suo oppositore che correva per le presidenziali lo ha proprio accusato di brogli. Continuiamo a parlare di leader forti, leader a volte con derive autoritarie, a volte non è una singola persona ma è un monolitico partito comunista che mostra i muscoli, e se l'ultimo baluardo contro questo muro fosse una storia d'amore? Allora, se dovessi riassumere la storia, beh, lo faccio, ma vi cito il titolo di un romanzo piuttosto controverso. Il titolo è Xi Jinping e le sue sei donne. Cosa è accaduto? Tra la fine di ottobre del 2015 e il gennaio del 2016 scompaiono 5 persone tra Hong Kong, la Cina e la Thailandia. Cosa hanno in comune queste persone? Antonio Talia. Sì, Allora, tutte queste persone che sono coinvolte in quello che potremmo chiamare il caso dei cinque piccoli librai, dopo i 10 piccoli indiani c'è il caso dei cinque piccoli librai, erano in realtà legate a questa casa editrice che era la Mighty Current Media e anche una libreria che vendeva questi libri che stava a Hong Kong, che era la Causeway Bay Books. E cosa vendevano? Che libri producevano? In realtà si tratta di una serie di storielle un po' erotiche, un po' romantiche, una specie di Harmony, diciamo, una sorta di Harmony che non possono essere venduti in Cina, ma che appunto a Hong Kong, grazie al suo status di regione amministrativa speciale, invece godendo di una maggior libertà di stampa, sono comunissime. Quindi tu hai intere file di cinesi in vacanza a Hong Kong che corrono a comprare questi libri. E perché? Perché sono i protagonisti di queste storie d'amore, sono molto spesso i leader del Partito Comunista Cinese. Ora, immaginiamoci il 17 ottobre 2015 in una villa a Pattaya, in Thailandia, cinque uomini armati fanno irruzione e portano via con sé questo Gui Minhai, che era lo scrittore che aveva scritto questo Le sei donne di Xi Jinping. E poi a uno appunto i cinque piccoli librai sono scomparsi tutti quanti. Una pregevole operazione dei servizi segreti cinesi. Esatto, una pregevole operazione di extraordinary renditions, solo che, insomma, come dire, nel momento in cui vai a cercare dei pericolosi oppositori che comunque invocano le regole democratiche, come, non lo so, il defunto premio Nobel Liu Xiaobo, oppure Chen Guangcheng, che è un dissidente che è fuggito negli Stati Uniti nel 2012, eccetera, come dire, i tuoi obiettivi sono anche molto alti. Qui stiamo parlando di cinque persone che sono state portate via, sono state processate semplicemente perché il partito, o forse lo stesso leader Xi Jinping, era impaurito dal non voleva dare questa immagine di uomo al quale piacciono lascivo. Molto le donne, lascivo. Se, come dire, i nemici del Partito Comunista Cinese sono cinque scrittori di livello, come dire, abbastanza mediocre, esatto, che devono inventarsi delle storie su Xi Jinping e le sue cinque amanti, devo dire che forse, come dire, c'è un problema anche di autorevolezza. Sicuramente, e fa sorridere, insomma, pensare a cinque membri delle forze speciali che rompono nel bungalow a Pattaya con in mano, immagino, anche lo scrittore con questo libretto stile Harmony, Xi Jinping e le sue sei donne. Fragilità, forse, del potere. Siamo quasi in chiusura, quindi, caro Gianmarco Ferronato, lanciamo i titoli di coda. Con i quali ringrazio Antonio Tali, Elisa Pancaldi, il loro lavoro quotidiano per questo lungo mese, Gianmarco Ferronato al suo gusto musicale. Un mese di storie, cari ascoltatori, apparentemente lontane eppure vicine. Questo mese si chiude qui. Notizie, fatti, storie e opinioni, le opinioni distinte dai fatti. L'ho detto altre volte, tutti hanno diritto ad avere un'opinione, ma tutti hanno il dovere di averla informata. Più fatti, meno aria fritta, per dirla in poche parole. Grazie tantissimo all'affetto e al sostegno di tanti ascoltatori, ben visibile sui social. Grazie anche a chi ci ha criticato, ed è importante anche quello. Io mi fermo qui, spengo il microfono a malincuore, prendo lo zaino e vi saluto ricordandovi che nessun luogo è lontano.